fermarsi una mattina e guardarsi nello specchio per capire nei tuoi occhi cosa c'è. Cercare in fondo l'anima e capirlo nel respiro, la tua vita nel tuo tempo che cos'è. Se da solo in compagnia sogni adesso di una volta, se si ride in ogni tempo e con l'età. Non cercarla nello specchio, sa il cuore se la cerchi è la realtà. Sedersi in riva al mare fissando l'orizzonte, pochi istanti e la tua mente volerà. Sequenze di ogni tempo invadono i pensieri, ti portano lontano in libertà. In un momento strano ritrovi in una volta un bambino scomparso tempo fa. Il sorriso di ogni volta ci accompagna nei momenti, senza accorgerci del tempo e dell'età. Già dai tempi della scuola si sperava nel futuro per capire ciò che adesso è stato già. Se gli umori del momento scandivano l'amore oppure il dettato dell'età. Se ogni bacio nel suo tempo ha cambiato il suo sapore, se l'amore si è fermato là. Nello specchio del tuo tempo l'amore non invecchia con l'età. Svegliarmi la mattina nel mio tempo e senza specchio, capire che i suoi occhi sono qua. Accendersi nell'anima, sentirli nel respiro, la mia vita col mio tempo rivivrà. Da solo in compagnia non è un sogno questa volta, quel sorriso nel mio tempo è la realtà. Danno vita ai miei momenti nel trascorrere del tempo e dell'età. Se ogni bacio in questo tempo ha ridato il suo sapore e l'amore si è fermato qua. Nello specchio del tuo tempo l'amore non invecchia con l'età.